Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Mattino. Visto che questi migranti vengono per la maggior parte salvati da navi ONG battenti bandiera tedesca, olandese o di altre nazioni, ma perché queste nazioni non inviano nel Mediterraneo pure le loro navi ospedale per farsi carico della parte Covid? Eventuale revoca della concessione di autostrade. Mi chiedevo, ma non sarebbe più corretto affidare la gestione al Genio Civile insieme all'ANAS e ai Militari del Genio, che oltre ad essere enti dello Stato presenti su tutto il territorio nazionale, hanno certamente le capacità tecniche per poter gestire molto meglio di chi secondo me fa maglie e golfini. Due piloti della Ferrari si scontrano per egoismo personale, per mettersi in mostra, però danneggiano il team. E ricorda i partiti di governo, per mettersi in evidenza e danneggiano gli italiani. Oh, non male la Ferrari come metafora della politica, non male. Ci abbiamo pensato un po' tutti. La questione delle ONG e anche la questione di autostrade, se volete la metto insieme qua, la risposta almeno per quanto, per quel che è la mia opinione, vale per quel che vale naturalmente. Evitiamo soluzioni fantasiose, ragazzi, per favore. Da una parte la questione del genio civile, del genio militare per la gestione delle autostrade, insomma, a parte non so se abbiano abbastanza uomini e mezzi per una gestione di questo tipo, e dall'altra le navi ospedale tedesche, olandesi e via dicendo nel Mediterraneo. Non so, cioè io immagino che oggi in realtà la ministra Lamorgese, che avrà un incontro con i suoi colleghi europei, discuterà anche di come gestire questa parte qua, la parte più strettamente sanitaria della questione degli sbarchi. Vedremo che cosa ne emergerà, se ci saranno appunto delle novità, dei fronti interessanti. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, sono le 7:20 minuti e 24 secondi, è lunedì 13 luglio. Al microfono sempre Simone Spezia ed è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa. Con i giornali che si dividono in due grandi gruppi, quelli che titolano sul tema dell'immigrazione, che aprono sul tema dell'immigrazione, e quelli che invece si dedicano alla vicenda autostrade. Nella prima schiera rientrano Il Messaggero, che parla di un picco di migranti positivi e di un'ipotesi di ricovero a Roma. Tra l'altro con una stretta sui voli, con il rischio stop per Pakistan, India e Stati Uniti. Il Quotidiano Nazionale, che parla delle navi della quarantena, del piano del governo per isolare i positivi al virus che arrivano dall'Africa. Il Corriere della Sera, che parla di allarme, contagi dall'estero e delle tensioni per l'arrivo di migranti positivi. E si parla di navi e caserme per le quarantene. Libero, che invoca basta importare malati di Covid. E invece su autostrade abbiamo il Fatto Quotidiano, che intervista il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I Benetton ci prendono in giro, così sarà revoca, dice Conte. Autostrade revoca più vicina, titola La Repubblica, che intervista tra l'altro l'amministratore delegato di Atlantia. Parla Conte, basta con i Benetton, è il titolo della Stampa. Titoli un po' diversi invece dal Giornale, che dice ogni bonus un trucco, l'INPS stanzia per le famiglie solo il 2,7% delle risorse, vacanze, biciclette, cassa integrazione, agli italiani metà di quanto promesso, e La Verità che si dedica invece a un'intervista con Matteo Salvini sulla questione della proroga dello stato di emergenza. Conte gioca contro l'Italia, pieni poteri lo impediremo. Il Sole 24 Ore titola sulla cessione dei bonus, parte dall'affitto dei negozi, e parla anche di supplenti, come avete sentito poco fa in GR24. Il Foglio ha una lunga intervista con Luigi Di Maio, nella quale parla sostanzialmente solo del suo ruolo come ministro degli esteri, e quindi dei dossier esteri aperti. E veniamo partiamo con qualcosa di un po' diverso, come sempre, magari che non conquista necessariamente le prime pagine dei quotidiani, e che però può essere argomento di dibattito. Sicuramente lo è stato, e ne abbiamo parlato poco fa, lo sono state le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale non aveva parlato esplicitamente di gabbie salariali, ossia di differenziazione salariale tra nord e sud, e però aveva detto questo. Lo risentiamo, ve lo faccio risentire, perché il Sole 24 Ore oggi presenta un'indagine esattamente sulle differenze tra nord e sud su questo fronte, su quanto si guadagna al sud e quanto si guadagna al nord, su come si vive al sud e al nord, che è molto interessante. Risentiamo questo passaggio di Salava. Io capisco che è un discorso difficile da fare, però alla fine è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna gli stessi soldi a Milano o, facendo l'esempio di Melania, a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso. E qua apriti cielo, perché tutte le proteste, anche dall'interno del suo partito, il Partito Democratico, a dire no, non si può parlare di gabbie, non si possono ipotizzare gabbie salariali. Oggi il Sole 24 Ore, a pagina 5, con Michela Finizio, ci mette di fronte a dei dati. Sono dei dati elaborati non da gente qualunque, perché sono signori economisti. È una ricerca realizzata da Andrea Ichino, Tito Boeri, Enrico Moretti e Johanna Posch, utilizzando i dati della qualità della vita del Sole 24 Ore, per la prima volta rielaborati per scopi scientifici. La questione degli stipendi, innanzitutto. Il presupposto è che un lavoratore dipendente, a condizione ovviamente di avere un contratto regolare nel pubblico o nel privato, con quello che percepisce in busta paga, vive sicuramente meglio in una città del mezzogiorno, premiate anche da alcuni indicatori della qualità della vita. Tre sono gli esempi messi in evidenza nello studio. Per esempio, un insegnante di scuola elementare con 5 anni di anzianità, che prende 1.305 euro al mese in termini nominali senza differenze geografiche. Un cassiere in una grande banca nazionale, circa 1.600 euro. I lavoratori di un'impresa energetica nazionale, 2.700 euro al mese al nord rispetto ai 2.900 al sud. Si scopre che i salari reali, e quindi quelli che poi vanno rapportati al costo della vita, sono mediamente più elevati del 9% nel mezzogiorno, dove si hanno buste paga in termini nominali simili al nord, ma appunto prezzi delle case più bassi, una spesa media delle famiglie inferiore in media di 740 euro. Si tratta del 36% in meno in termini relativi. E il fronte interessante qua, oltre al discorso generale, è il raffronto con la Germania. Cosa succede negli altri paesi? Ebbene, prendiamo per esempio la Germania. In Italia i salari non si basano sulla produttività locale, in Germania invece sì. Gli accordi nazionali tra sindacati e datori di lavoro seguono un modello decentralizzato. Il confronto con il modello tedesco mette in luce le storture degli accordi nazionali italiani, attualmente 346, che coprono il 97% dell'occupazione dipendente. Di fatto il divario medio dei salari tra il nord e il sud Italia è del 4,2%, mentre la differenza media tra est e ovest in Germania, perché è là che va fatto il rapporto, cioè in Germania la differenza non è tra nord e sud ma tra est e ovest, la differenza è 7 volte maggiore, arriva fino al 29,7%. Il 30% circa. Come capite, il tema di discussione c'è ed è aperto. In questa parte della rassegna stampa fatevi portare anche, fatemi rimanere su Milano. Abbiamo parlato di Beppe Sala, e però c'è anche un'altra storia che va raccontata. Va raccontato quello che sta accadendo sui Navigli in queste settimane, quello che sta accadendo nei luoghi della Movida. Va raccontato questo episodio che è sul filo di un episodio di razzismo, e anzi un episodio di razzismo sembra, ed è la vicenda del venditore di rose, che bene viene raccontata a pagina 18 del Corriere della Sera. Un venditore di fiori gettato in acqua durante una di queste serate. La gente è tornata a fare molto tardi con i drink in mano, con i bottiglioni già shakerati portati da casa o le birrette a pochi euro comprate in giro, racconta Stefano Landi, con buona pace del metro di distanza. Succede tutte le sere, ma in particolare sabato. Stavolta però la notte è segnata da un episodio violento. Sono le 2 di notte, 2 ragazzi mettono nel mirino un venditore ambulante di rose, partono gli insulti, poi lo aggrediscono e lo buttano in acqua. Senza motivo, 2 contro 1, senza che nessuno si mettesse in mezzo. Lui ha cercato di scappare, ma si è ritrovato nel Naviglio. Residente ad Aosta, domiciliato da tempo a Milano, aspettava il rinnovo del permesso di soggiorno, l'italiano lo capisce poco e lo parla peggio, va in giro a vendere rose, insomma sappiamo che cosa succede. E a segnalare una fase complessivamente complicata, i gestori di locali che affacciano sulla darsena raccontano l'escalation violenta delle ultime settimane. La peggio gioventù sembra essere uscita dal lockdown nel modo più selvaggio. Proprio nella serata di sabato erano maturate un altro paio di risse nella zona. La settimana scorsa un gruppo di ragazzi aveva tentato di buttare in acqua una persona. L'episodio più grave un mese fa, con un 25enne accoltellato al torace all'inguine in una rissa tra ragazzini in corso Garibaldi. E a proposito di razzismo, chiudiamo questa parte di rassegna stampa con un'altra storia di razzismo, e ancora una volta al Corriere della Sera. Siamo a pagina 21 con Claudio Arrigoni, ed è la storia di Beatrice Ion, 23 anni, è atleta di punta della nazionale di basket in carrozzina, in sedia a rotelle. Ha vissuto momenti drammatici per un'aggressione a sfondo razzista nei pressi della casa di famiglia ad Ardea, provincia di Roma. È stata lei stessa a denunciarlo anche dei post, anche in un post sui social. Stranieri di merda, tornate nel vostro paese, si è sentita urlare, handicappata, ha visto suo papà che la voleva difendere finire in ospedale con uno zigomo e un dente rotti, mentre la mamma veniva minacciata, tanto la becco per strada, fate attenzione. Beatrice ha contratto la poliomielite quando aveva 3 anni, forse la causa esatta non si sa, ha perso l'uso delle gambe, usano una carrozzina per muoversi, è in Italia da quasi 20 anni, arrivata qui da Orsova, cittadina sulle sponde del Danubio, nel febbraio del 2004 per cercare una cura. Ricorda la mamma, Giorgia, in Romania usavamo il passeggino, non avevamo la carrozzina, ce l'ha data la Caritas romana, è cittadina italiana da 6 anni, studia scienze della comunicazione a Teramo, da 1 anno e mezzo è fidanzata con Roberto, studente di ingegneria, indossa la maglia azzurra nello sport che ama, e insomma un'italiana, è un'italiana, Beatrice naturalmente, che ieri è stata costretta a subire e a vedere suo padre subire tutto questo. Una pausa. Mattino. Sì, ma mi dovete spiegare che senso ha mettere il blocco degli arrivi di alcuni paesi quando poi via mare, con i barconi, arriva chiunque da ovunque. Buongiorno, Sala veniva percepito a livello nazionale come un buon amministratore locale, no? Poi arriva il Covid, comincia a fare dichiarazioni di risonanza nazionale, e ti viene subito in mente quel detto che a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Ammazza che cattivo, ragazzi, che cattivo l'ascoltatore, mamma mia, un po' eccessivo, Francamente, però ha sollevato un tema di discussione interessante. Vedo che ci state scrivendo su questo, mentre invece sulla questione dei migranti non è che anche là esagerato, non è che arrivano tutti dappertutto, ma sembra quasi che chissà che succede. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci, eccoci qua, eccoci qua. Andiamo su. Soffro. Per cosa soffri? Per cosa? Per la questione dei migranti, perché lì scoppiano veramente, siamo appena all'inizio, a 13 luglio, a metà luglio, e lì c'è un'emergenza chiara. Se continuano così, 800 migranti che arrivano in due giorni a Lampedusa, insomma, io mi fido della ministra Lamorgese, mi fido Occhi Ciechi, che aveva detto che c'era un accordo di Malta, se lo ricordi, già in autunno, e questi migranti sarebbero stati smistati nella misura molto consistente in altri paesi. A questo punto mi piacerebbe che venisse fatto così un calcolo complessivo: a metà anno quanti sono stati smistati e quanti no, perché l'opposizione dice che sono cifre irrisorie quelli smistati. Io non credo all'opposizione, credo alla ministra, però ce lo dica chiaramente quanti è che ne ha smistati. L'opposizione dice che sono circa 13-14 mila che sono arrivati, in realtà sono meno, almeno dalle cifre che leggo sul Corriere della Sera, ma che ne sono stati smistati solo 500, 600, sì, non so quanti. Beh, se fosse vero, vuol dire che quell'accordo di Malta è un accordo farlocco, sì, un accordo, non lo so, insomma, sì, però mi piacerebbe un punto oggi su questo. Sì. Drammatico, perché se ne incrociano due di questioni: una dei migranti, in sé, sì, e una dei migranti malati di Covid, perché sì, in Calabria ieri c'è stata questa grande protesta ad Amantea, perché ne sono arrivati ammalati di Covid, e giustamente la governatrice Santelli dice: ma avevate detto che c'erano delle barche, delle navi che avrebbero fatto da luoghi di quarantena, cioè ci saranno queste navi, no? Una sì, era stata già messa a largo davanti alla Sicilia, bisognerebbe che ce ne fossero forse sì, due o tre sì, pronte a prendere questi ammalati, perché sennò scoppiano drammi come quelli di Amantea che abbiamo visto. La stessa Santelli, tra l'altro, lo segnalo agli ascoltatori su Corriere della Sera, chiede addirittura blocchi in mare, perché altrimenti teme il crollo del turismo. E sì, qua blocchi in mare li vedo difficili, sì, perché blocchi in mare significa tornare alla situazione precedente, cioè quella che tieni le barche con questi disgraziati poveretti che rimangono per giorni e giorni al caldo sul ponte delle navi, ed era esattamente la situazione contro cui la sinistra e tanti intellettuali, scrittori andavano sulle navi a portare acqua, a portare un po' di... Tra questi c'erano anche dei politici, io mi ricordo l'anno scorso c'era un rappresentante importante, allora era presidente del PD, Matteo Orfini, e una sua seguace, la deputata Bruno Bossio, la notizia la leggo a pagina 4 del Foto Quotidiano, si trova in una situazione particolare. La deputata Bruno Bossio protesta adesso contro i migranti profughi perché se li hanno messi vicini a casa sua. Sì, c'è un pezzo, sì, qua c'è un pezzo feroce, no, di Lucio Musolino, appunto, sul Fatto Quotidiano. Dice: prima cita un tweet di 20 giorni fa: non ci possiamo mai sottrarre al dovere di mantenere i diritti, la cooperazione, l'accoglienza. Sì. E adesso un nuovo post nel quale dice: va bene tutto, ma non vicino a casa mia. Esatto. Not in my backyard. Beh, anche questo, insomma, dovrebbero evitare. Proprio quando rimetto, mi dice: ma Amantea è così bella, lei c'è una villa ad Amantea. Sì. Tra l'altro, lei è un personaggio molto noto in Calabria, è la moglie di un ex deputato del PD, Nicola Adamo. E quando sono arrivati lì, ha detto: ma è un'indecenza, è uno scandalo. Beh, insomma, dovrebbero starci attenti, dai, diciamo la verità, sì, perché non è che quando arrivano vicino a casa tua i migranti. Si verificò a Capalbio, ti ricordi? Sì, come no, certamente. È una figura un po' da persone sono incoerenti, ecco, sì, diciamo in modo educato. Sì, si ipotizza, racconta il Messaggero, di ricovero a Roma per quelli scoperti positivi al tampone. Si parla di un piano proprio della ministra Lamorgese per requisire navi e caserme, utilizzare navi e caserme per mettere in quarantena le persone mentre si ragiona su un blocco più esteso dei voli. A proposito di migranti, e non solo di migranti in realtà, perché la cosa naturalmente, come sempre, ha molto a che fare con la stabilizzazione della Libia, oggi c'è un'intervista lunghissima, Paolo, sul Foglio, al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Sono 3 pagine più una piccola coda alla fine realizzata da Daniele Raineri, nel quale praticamente si parla quasi solo di questioni estere e anche naturalmente di Libia, ma non solo, c'è anche un accenno a Draghi, hai visto? Sì, l'ho visto, innanzitutto mi ha fatto ridere il titolo di questa intervista, che è "A sportellate con Di Maio". Come dire, Di Maio non è la nostra capo stile, noi abbiamo fatto un'intervista bella dura. E poi mi è piaciuto, a proposito di questa cosa che dici tu di Mario Draghi, siccome, come è noto, l'altro giorno è venuta fuori la notizia che si erano incontrati segretamente Di Maio e Draghi, e Di Maio dice, lo dico tra virgolette, è stato un incontro istituzionale come molti altri, c'è stato uno scambio di vedute, dice, è stato un incontro cordiale e proficuo, Draghi mi ha fatto un'ottima impressione. Bene, questo è un fatto positivo. Di Maio ha avuto un'ottima impressione dall'incontro con Draghi. Insomma, come capisci, non so se l'abbia detto ironicamente, però è come se io dicessi che ho incontrato, non so, un genio dell'umanità, fai tu il nome, dirà, mi ha fatto una buona impressione. Sì, tutto sommato. Tutto questo signor Draghi, tutto sommato, bravino. Persona, bravo, niente bravo. Male, niente male. Guarda, questo signor Draghi. Nel frattempo il suo capo, il suo punto di riferimento, ha tirato fuori un sonetto, questo c'è su tutti i giornali, Beppe Grillo, un sonetto in romanesco su Virginia Raggi, in cui le dice, non so fare, non so parlare il romanesco, ma dice, andiamo se ne... lasciamo perdere, qua Roma non c'è merito, è una città di mascalzoni. Lei stessa si è dovuta un po' difendergli, ma no, i romani sono meglio. A Virgia andiamo, se nel Roma non te merita, dico che l'onesti dovrebbero pià e valigie e abbandonare sta città bella e zoccola. Così, sì. Bella e zoccola, e tutti i giornali capiscono che il messaggio subliminale è quello di dire, Raggi, lascia stare Roma, non ti ricandideremo, non ti ricandideremo, ed è una cosa che avrà delle conseguenze, perché intorno alla questione Raggi, cioè, a parte che è la loro principale esponente nelle istituzioni, perché guidare Roma vale più di un ministero, sì, ma poi intorno alla Raggi c'è la questione del doppio mandato. Se lui ritira la Raggi da Roma, vuol dire che poi non ce n'è più per gli altri il doppio mandato, cioè che possano fare un terzo mandato, e quindi significa qualcosa anche per il movimento 5 Stelle. Ti segnalo che il fatto dà un'interpretazione opposta, perché il titolo, ti do solo il titolo di prima pagina, Grillo spinge il bis della Raggi, Roma però non ti merita, e quindi no, l'idea del fatto in realtà... Perché se io ti dicessi, guarda, Radio 24 non ti merita, andiamocene, sei troppo bravo, e questa è una radio di ciuccioni, tu lo prenderesti come un invito a restare? No, per me è una domanda, una città di ciuccioni, volgari e ladri. Sta radio dei ciuccioni, andiamo al traffico. Mattino. Come avete sentito, già si comincia sulle autostrade liguri, ma ci arriveremo tra un attimo alla questione autostrade. Intanto, Paolo, voglio segnalarti che i nostri ascoltatori, che sono più cattivi sia di te che di me, hanno già iniziato, ho fatto due palleggi con Lionel Messi, mi ha fatto una buona impressione, scrive un ascoltatore, e un altro dice: ho incontrato il Papa, mi è sembrato una brava persona. Come vedi stanno iniziando, sono partiti, non li ferma più nessuno. Ti vorrei portare però a questo punto, e poi andremo anche alla questione autostrade. In Polonia c'è un'elezione. La Polonia è clamorosa, sì, perché non si sa ancora, è in testa Andrzej Duda, che è il leader in carica, molto sovranista, con tinteggiature antisemite, insomma non è un personaggetto non da poco. Però secondo me la vera notizia oggi è che Rafał Trzaskowski, che il sindaco di Varsavia, che era lo sfidante, che al primo turno era al 30%, oggi è lì con oltre il 49%, sta a un millimetro. Allora, anche se perdesse, i dati seri sapranno domani, martedì, quindi li commenteremo mercoledì mattina, dicevo, anche se perdesse, ha avuto una performance, per essere un europeista, uno sembra, cioè, non sembra l'abitante di un paese, il cittadino di un paese sovranista, ha fatto una performance incredibilmente forte, e questo dimostra, lo dico, cerca di capire, che a volte invece di cercare di contrastare i sovranisti con trucchetti, sgambetti, iniziative giudiziarie, messe fuori gioco senza fair play, ma sfidandolo nelle urne, quando uno ha un contenuto concreto ed è un buon candidato, perché questo era Trzaskowski, era già stato eletto sindaco di Varsavia, si può vincere. Cioè è più proficuo sfidare l'avversario sovranista cercando di raccogliere il consenso popolare, che è quello di fare piccoli scambietti. Siccome sì, tu hai un buon orecchio, capisci di cosa sto dicendo. Chiarissimamente. Lode a Trzaskowski. Le questioni europee ci portano alle trattative sul recovery fund e sui soldi dall'Europa. Oggi il Presidente del Consiglio sarà a Berlino e troviamo traccia su qualche giornale di questa visita di oggi. Troviamo traccia di questo e troviamo traccia anche della resistenza che i cosiddetti paesi frugali stanno continuando a fare. Sì, insomma, ha avuto un incontro nei giorni precedenti, abbiamo già parlato, Conte con Rutte, l'ha avuto anche uno con Sanchez, Rutte il leader olandese, il capo dei frugali, Sanchez invece è il nostro migliore alleato. Mi sembra che la situazione sia una situazione in equilibrio, ma dove non tutto è spuntato per noi, cioè non è spuntato, voglio dire che noi vogliamo il massimo di soldi in dono e senza che nessuno venga a questionarci su come utilizziamo questi soldi. Secondo me è una posizione non molto difendibile, comunque andiamo avanti così e vedremo. E vedremo. Però in Europa si discute, perché ci sono paesi che non sono disponibili a fare questo dono, anzi sarebbero magari disponibili a fare la parte di dono, perché poi ce n'è un'altra parte di prestito, però dicono fateci almeno controllare come li spendete, perché alcuni lo dicono in modo scortese, come il primo ministro austriaco, lo dicono: voi siete abituati a buttare i soldi, non ci fidiamo. Altri lo dicono in modo più educato, però un qualche controllo, se uno ti regala dei soldi, anche per non essere costretto poi a riregalarteli per due mesi, tre mesi, certo. Mica possiamo pensare che vivremo con questi doni per il resto dei nostri giorni. Questo sarà l'oggetto dell'incontro di Berlino, e dopo il 17 luglio ci sarà l'incontro decisivo, e lì vedremo. Sì, bisognerà vedere se sarà effettivamente decisivo. A chiudere, Paolo, abbiamo veramente 30 secondi. Mi sembra, guardare i giornali, che si avvicini la revoca della concessione ad Autostrade, ossia che la trattativa non sia andata particolarmente bene. Lì è come le interpretazioni della Raggi: uno dice che lo rafforza, l'altro dice che lo indebolisce. Ma una cosa è sicura, che hanno detto Conte che domani ci darà la risposta definitiva. Sarebbe la prima volta, martedì, fissatevi questa data, ci dirà o la revoca o continua l'accordo con il Benetton. Se domani non ci sarà una risposta definitiva, a questo punto ti dico una delle due, mi è uguale, anche sì. Se la revoca significa che dovremo pagare poi magari un prezzo altissimo di risarcimento, sì. ma mi va bene anche questo, purché non sia che domani trovano un trucco per rinviare. A questo punto ti avverto, mercoledì esplodo. Addirittura, attenzione, mercoledì, preparatevi, preparatevi che se rinviano... È tutto così. Martedì, mercoledì, entro il fine settimana, la prossima settimana, non si può andare avanti così. Quindi, allora, attenzione, martedì, segnatevi questo, se domani rinviano su autostrade sì, Palomieri, canale, Palomieri mercoledì. Mercoledì perché, anzi, no, restate qua, che volete assistere all'esplosione radiofonica di Palomieri. Paolo, ci risentiamo mercoledì naturalmente, GR24, a tra poco con Maria Latella e i nostri ospiti parleremo di questo post-Covid, dell'impatto sulla fragilità della nostra società, se vogliamo metterla larga, e anche l'impatto sulle famiglie, sulle imprese, la povertà e non solo, a tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.